quella tecnologia, quella di cui parla lei, dottor Burdo, riesco anche ad escludere mia suocera, oltre che il rumore? La suocera va soppressa, la suocera. No, non rida. Una cosa velocissima, perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo fargli scoprire che sta telefonando. Libero di nome di fatto? Sì. No, libero di nome, di fatto sono coniugato. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, una è un po' ragazzina, comunque belle sono belle. Giovani, famose, una fa pure il ministro. Beve una tazza di latte da sola la sera guardando la TV. Eppure sogna di avere un compagno, tre figli. Sì. Dai, l'avrete letto sicuramente anche voi l'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair. Stiamo parlando del ministro Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali, attualmente single. Eh sì, però pensa e spera che sia una situazione passeggera. L'altra, invece, della quale raccontiamo stamattina, di uomini non ne vuole proprio sapere. Sicuramente le sue ultime dichiarazioni sono legate alla promozione del suo ultimo film, The Other Woman, ma dai, la biondona. Non è detto. Sì? Però. Cameron Diaz, bellissima, altissima, è sicuramente del partito delle single che ha come slogan meglio sole che male accompagnate. E anzi dispensa consigli invitando le donne tradite a mandare letteralmente al diavolo il traditore. Va bene, comunque Deborah, è strano, singolare, per fare un gioco di parole, che a parlare di singletudine ultimamente siano state le donne, mentre gli uomini tacciono, non rilasciano interviste. Allora ci pensiamo noi oggi a Cuore Denari a far venire fuori il sommerso, naturalmente senza distinzione di genere. 800 24 00 24, un numero che oggi vuole però dare la precedenza ai single, quindi superate la barriera rosa, parlate di, con noi di questo universo variegato ed eterogeneo che deve districarsi però ogni giorno con le proprie forze da soli tra questioni di cuore e di denari. Eh sì, raccontateci che tipo di single siete, single per scelta o per necessità? Single di ritorno, single pentiti, single incalliti o single per finta? Oppure single non lo siete più e, così un po' in segreto, rimpiangete quella fase della vostra vita? Un ascoltatore ci scrive subito al 349-238-6666, single il massimo della vita. Va bene, allora intanto continuate a scrivere e iniziate a chiamarci. Oggi scandagliamo il mondo dei single dal punto di vista del cuore e dei denari, perché essere single ha sicuramente i suoi vantaggi e alla singletudine ci si può abituare, magari imparando ad apprezzarla nel tempo, però è anche vero che essere single costi. Il single affronta delle fatiche dal punto di vista emotivo, ad esempio io penso alla solitudine, no? Deve fare conto sempre solo sulle sue forze e questo magari penso in alcuni passaggi della vita può essere abbastanza faticoso, senza contare che poi stare da soli, dite la verità, modifica, no? Un po' il carattere, perché ci si rende conto, no? Non devi rendere conto a nessuno, però le ricerche dicono che anche la salute e il benessere ne risentono, quindi 800 24 00 24 se vi riconoscete, se volete contestare questi profili che emergono un po' dalle ricerche, un po' dalle storie che ci raccontano anche i nostri ascoltatori, perché anche i single ci scrivono. Altro che, guarda, ti dico già che su Facebook Jess Paz, che sarà una sintesi di un nome probabilmente autentico, scrive commentando appunto l'anticipazione del nostro programma: qualche sgravio fiscale anche per chi deve affrontare la vita da solo non sarebbe male. Ed è un tema che affronteremo nel corso del programma, perché il single rappresenta anche uno spaccato economico molto interessante. Tanto la vita dei single è più cara, basta monitorare il carrello della spesa, le spese di casa che non si dividono con nessuno, il fisco che è totalmente disinteressato a questa categoria, al punto che perfino il premier Renzi, parlando degli 80 euro che entreranno in busta paga a maggio, ha detto che hanno un impatto diverso nell'economia di una famiglia e nell'economia di un single. single, secondo noi è una considerazione un po' superficiale, perché un single può anche essere un pensionato, un vedovo, un anziano comunque. Anziano, sì. E quindi, anche per commentare tutto questo, quanto spendete come single? Come è composto il vostro carrello della spesa? Raccontatecelo all'800 24 00 24, spiegateci il vostro punto di vista economico da single, ma anche le soluzioni che avete trovato per semplificarvi la vita. E Max ci scrive: fiscalmente, Deborah, sì, fiscalmente è single, ma è impossibile stare senza di voi donne. Io pensavo noi due, invece penso le donne in genere. Una vita senza donne non ha senso. È il single per finta di cui abbiamo parlato prima. A me non mi fregate. Io vivo bene, benissimo. Come faccio? Sono single, single convinto. Avete presente non dover rendere conto a nessuno? Ecco, questo è il primo vero vantaggio. Ho voglia di correre? E corro. Ho voglia improvvisamente di correre indietro? E corro indietro. Voglio fare una cosa, la faccio. Voglio pensare una cosa, la penso. C'ho sonno, vo a letto. Ho voglia di fare l'amore? Chiamo Mirna. Allora Nicoletta, la nostra trasmissione di oggi va a pareggiare i conti con quella che abbiamo dedicato, te lo ricorderai, certo, alle famiglie numerose, anzi numerosissime, 8, 9, anche 10 più figli. Sì, perché la famiglia numerosa mi sembra che sia dai 4 in su. I single, questo esercito, cosa ci raccontano le statistiche? Abbiamo trovato alcune indicazioni tratte dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. In Italia si delinea sempre di più il fenomeno delle famiglie con meno componenti. Nel 1971, ero nata da poco, una famiglia era mediamente composta da 3,3 persone. Nel 2011 questo nucleo familiare medio era composto da 2,4 persone, ma le famiglie formate solo da una sola persona sono quasi una su tre, tendenza che è causa dell'invecchiamento della popolazione. Cosa c'è dietro a tutti questi numeri? Abbiamo scomodato un demografo questa mattina per spiegarcelo e quindi salutiamo il professor Alessandro Rosina, professore associato di demografia alla Facoltà di Economia all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. A voi. E benvenuto. Professore, vuoi lei è la single? Eccola. Ho ammogliato. Io? Io sono felicemente ammogliato con due figli. Ottimo. Senta professore, però lei può raccontarci anche chi sono questi single? Sono più uomini o più donne? Single per scelta o single di ritorno? Ci aiuti un po' a leggere tra le pieghe dei dati statistici? Sì, sì, perché anche, insomma, come avete detto voi, è un universo molto variegato. Si può essere single per molti motivi. La maggior parte delle persone in una propria fase della vita ha vissuto probabilmente come single, io stesso, quindi insomma è un'esperienza comune e appunto può essere legata poi a diverse fasi della vita e quindi può essere anche molto differenziata. Lo si è da giovani, magari prima di formare una propria famiglia, e lo si è sempre di più in questa fase perché la formazione della propria famiglia, il matrimonio, arriva in età sempre più avanzata, quindi si sta allargando una fase della vita in età giovane in cui non si vive più con i propri genitori ma non si è ancora formato un'unione stabile di coppia, in cui appunto si vive questa esperienza di vita da soli, da single, oppure come scelta in alternativa a formare un'unione di coppia o una famiglia, quindi insomma in maniera più stabile. E poi sempre di più lo si è anche per investire sulla professione, sulla carriera. Quindi se in questa fase in realtà sono più gli uomini, ecco, che vivono l'esperienza di vivere come single, negli ultimi anni è la crescita maggiore invece riguarda le donne, perché appunto l'attenzione delle donne alla propria formazione, alla propria realizzazione professionale è in forte crescita nelle nuove generazioni e quindi anche il desiderio di investire nella propria autonomia e di fare insomma scelte di vita, di realizzazione prima di formare una propria famiglia stanno fortemente crescendo, anche se poi per gli uomini c'è sempre l'idea di poter recuperare più avanti e quindi magari investire una prima fase nel lavoro e poi successivamente a 40 anni magari oltre pensare comunque di formare una famiglia, mentre le donne a un certo punto, se vogliono recuperare, devono mettersi a correre, perché altrimenti poi rischiano diventa un po' tardi definitivamente. E l'orologio biologico, sì, l'orologio esatto, biologico è corre. È molto interessante questo aspetto che ci ha indicato professor Rosina sull'investimento nella carriera e nella professione, da sposati o meno, come se la famiglia qualche volta fosse limitante in questo. In realtà per molti la famiglia è un supporto fondamentale, non la crescita professionale è aiutata notevolmente anche da un nucleo familiare di conforto e di supporto, ma magari questo sarà oggetto di un'altra nostra trasmissione. Volevo ricordare che il professor Alessandro Rosina è anche autore, tra i vari libri che ha scritto, anche di quello uscito lo scorso anno, L'Italia che non cresce, gli alibi di un paese immobile. E in questo paese, professor Rosina, i single dove si trovano principalmente? Noi abbiamo letto che a Milano quasi la metà degli abitanti, il 45% del totale, è single. C'è stato un aumento del 34% in 10 anni, e anche a Roma non si scherza, perché il 44% dei nuclei familiari è formato da un solo, da una sola persona. Insomma, abbiamo individuato le città dove trovare marito. Bisogna vedere se questi vogliono essere acchiappati e acciuffati. Le altre zone d'Italia cosa raccontano, professore? Sì, no, in effetti è così, perché se noi andiamo a vedere quali sono le cause in qualche modo che stanno spingendo a questa crescita del fenomeno dei single, come avete detto anche voi, insomma, le famiglie composte da un'unica persona erano appena meno del 25% nel 2000 e sono già ora oltre il 30%, quindi anche semplicemente sono guardando l'evoluzione degli ultimi anni, la crescita è stata molto forte, molto consistente. Cosa ci sta sotto? Abbiamo detto, da un lato, questa posticipazione del matrimonio, della formazione della famiglia e l'investimento soprattutto poi sempre più femminile anche sul lato professionale. Poi però ci sono altri due aspetti, processi demografici che sono legati, che incidono sulla crescita di questo fenomeno e incidono maggiormente nel nord Italia soprattutto, sì, e nelle grandi città come ad esempio Milano. Uno è l'instabilità coniugale, perché oltre a, avevamo detto, le varie fasi della vita, la seconda fase della vita, quella in età più centrale, è quella in cui i single sono soprattutto persone che non sono più celibi o nubili, ma in qualche modo hanno dietro un'esperienza comunque di coppia che è finita e quindi si ritrovano come single di ritorno sostanzialmente in larga parte, soprattutto dopo i 45 anni, prevale soprattutto questa condizione. E l'instabilità coniugale effettivamente è maggiormente presente nelle grandi città del nord. L'altro aspetto invece riguarda l'altra fase della vita, cioè quella in età anziana, perché molto della crescita dei single è anche legata appunto, come avete detto, all'invecchiamento, a come causa l'invecchiamento della popolazione, e qui tra l'altro dominano maggiormente le donne. Ma come causa o come conseguenza? No, ecco, infatti, l'invecchiamento è causa dell'essere single e non evidentemente conseguenza, perché il fatto di vivere più a lungo in una fase in cui i figli sono già usciti dal nucleo familiare e magari per la fine dell'unione di coppia, del matrimonio o per vedovanza, e per il fatto soprattutto poi che le donne vivono più a lungo, sono soprattutto le donne che dopo 65-70 anni si trovano a vivere da sole. Certo. Allora, per queste donne c'è un messaggio di Sergio che ci scrive: 65 anni, vedovo da 5, non candida. So come e dove trovare una donna adatta. Mi date una mano? Adesso vediamo come ragazze, possiamo via 10 minuti di tempo, perché siamo impreparate a questo. Magari a questo le nostre match. Amiche si candidano a loro volta. Viola invece scrive: contraria alla convivenza senza matrimonio, favorevole al matrimonio senza convivenza. Io sono single dal lunedì al venerdì, sposata nei weekend, secondo matrimonio a 58 anni, ma rigorosamente in case diverse e città diverse. Hai capito? Questo fa il paio con Roberto, che ci chiama da Milano all'800240024. Buongiorno Roberto, benvenuto. Buongiorno, infatti è il duale mio, uguale. È il duale, siete fatti l'uno per l'altro. Però adesso Roberto devo subito contestarlo. Quindi che cosa ci combina Roberto? Single per scelta? Io in realtà sono un'altra categoria, sono un semi-single. Io dopo 3 matrimoni andati male e 3 divorzi e 3 convivenze molto lunghe ugualmente andate male, da circa 12 anni ho una pubblica concubina che sta in Costa Azzurra. Io lavoro a Milano in università, insegno e lavoro nei paesi dell'est. Ecco, così vediamo. Magari il professor Rosina la conosce anche bene e quindi e ci vediamo, diciamo, 6 o 7 giorni al mese in due tranche. Però io stavo pensando che ma lei non è single, perché 3 divorzi, 3 convivenze lunghe, lei non ce la fa stare single, parliamoci chiaro. No, poi no, le relazioni poi non vanno bene. Intanto mi prendono in giro, dicono che amo la cerimonia, ed è vero. Ah, ma la cerimonia crede in fondo nel matrimonio e nella coppia. Vogliamo... Grazie Roberto, grazie. Grazie mille. Roberto per averci chiamato. Avremo anche Paolo dalla provincia di Alessandria, sì. Ma vogliamo salutare la nostra amica che è in linea con noi. Molto volentieri, una grande amica di Cuore e Denari. La dottoressa Gianna Schelotto, psicoterapeuta e scrittrice. Buongiorno e ciao Gianna. Buongiorno. Eccoci qua. Bentrovate. Grazie, grazie. Allora, il nostro amico, allora, 3 matrimoni, 3 divorzi, adesso un semi-single che vive tra Milano, esatto, e la Costa Azzurra, una relazione di 6 o 7 giorni al mese, infatti lui si definisce semi-single, una nuova categoria. Che ti dice, Gianna? Ma mi fa pensare che le single, per desiderio e per scelta, sono le sue compagne. Insomma, non lo sopportano nella convivenza, parliamoci chiaro. Sì, mi viene da pensare questo, perché sono sei rapporti andati male, come dice lui. Voglio dire, per 6 volte le donne si sono stancate o non hanno retto o lo hanno lasciato andare, ecco. Questa è la lettura di Gianna Schelotto. Che le letture sono molteplici. Lui dice che è semi-single per scelta, probabilmente forse anche le donne che ha frequentato in questi anni hanno però scelto. Però mi piace perché lui ha inventato, ha aggiunto una nuova categoria di single. E quindi vi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci, anche magari se sono in coppia e vorrebbero tornare single. Sì, però non è carino dirlo, dai. Magari facciamo confessare apprezza. Così. D'altronde no, qua lo dicono in confidenza, possono raccontarcelo. Beh, uno dice, io sono felicemente sposata o sposato, però della mia vita di single rimpiango questo. Raccontatecelo. Intanto un'altra domanda al professor Rosina, perché mi interessa capire, visto che qua sono una donna di denari e ormai questa etichetta me la porterò con me fino alla fine dei miei giorni, che ruolo hanno i single, professore, nel tessuto economico e produttivo? Lei prima ci ha offerto questa sua analisi sul tema dell'investimento nella professione e nella carriera, ma andando ad esplorare ulteriormente questo aspetto, sono lavoratori dipendenti, liberi professionisti, che scelte economiche fanno secondo quello che ne sa lei? Sì, faccio una piccola premessa legata all'ascoltatore che è intervenuto prima. C'è una definizione per la categoria a cui lui appartiene, e che è quella dei LAT, dei Living Apart Together. Vedi che i professori si riconoscono. C'è, me la ripeta, scusi, l'ho interrotta. Living Apart Together. Living Apart Together, i LAT come acronimo. Molto studiati da qualche anno, a partire da alcuni studi che sono iniziati in Inghilterra, che prima si sono accorti di questo fenomeno, che è appunto una situazione intermedia tra l'essere single e essere in una relazione di coppia, perché sostanzialmente si vive per conto proprio, ma si ha comunque una relazione stabile con una persona che però non vive quotidianamente assieme e vive altrove. Questa è una condizione sempre più comune. Insomma, sono impegnati, sono single col cuore impegnato, che vivono in case diverse. Non sono a tutti gli effetti single, esatto, perché comunque il cuore ce l'hanno impegnato, è che per vari motivi, a volte per scelta, a volte per difficoltà di conciliare gli obiettivi professionali di entrambi, si deve vivere comunque in 2 città distinte. Guardi, o si deve, vedi come è stato diplomatico. Posso dire qualcosa in più? C'è un mio amico che è un single di questo tipo incallito, ha una compagna che vive in un'altra casa, non tanto distante in termini di città, ma lui mi dice: mi risolve questa donna tutti i problemi pratici. Parliamoci chiaro, ecco il motivo per cui poi questa relazione. Gianna, hai sentito? Scateniamoci. Sentito, ma è abbastanza diffusa questa cosa. D'altra parte, io vivo a Genova, dove un tempo si diceva che i matrimoni più riusciti erano quelli dei naviganti, che facevano lunghi viaggi che duravano 6 mesi. Allora quest'uomo tornava a casa, e quando tornava a casa era accolto come una specie di re, perché c'era poco, perché e tutto si sistemava, anche i figli, arriva papà, quindi cambiavano le loro abitudini di vita e tutto girava intorno a lui per quel poco tempo che stava a casa, e poi lui ripartiva. Ed erano matrimoni che duravano a lungo e persino si potevano definire felici. Ecco. Quindi questa storia del vorrei non posso, ecco, diciamo che non riguarda soltanto i rapporti tra le persone, ma in generale è un taglio mentale che stiamo assumendo sempre di più rispetto a tutte le nostre scelte, quella di fare delle scelte ma non fino in fondo e tenerci sempre una zona franca nella quale ritrovare noi stessi. Professor Rosina, in 30 secondi che poi la lasciamo e andiamo avanti col programma, quindi una descrizione, diciamo, del profilo economico, sì, del single? Sì, no, giustamente quello che è stato detto è molto vero, perché è legato a questa componente culturale dell'importanza di tenersi aperte altre scelte e soprattutto della reversibilità delle scelte, quindi poter fare le scelte e poi tornare indietro e rimettere in discussione, questo è sempre più vero. Comunque, ecco, rispetto all'aspetto economico e professionale, è vero che i single, se quindi leviamo la componente legata all'invecchiamento della popolazione, quelli anziani, e soprattutto quindi quelli nella prima fase della loro vita, sono quelli che investono maggiormente sul lavoro e quindi il loro ruolo produttivo è particolarmente rilevante, perché appunto sono quelli che rispetto appunto all'aspetto economico hanno un impegno maggiore, molto spesso anche per scelta, e questo è sempre di più legato anche all'aspetto della componente femminile. Come dicevamo, le difficoltà soprattutto italiane di conciliazione fra famiglia e carriera professionale, avete appunto fatto il caso anche del ministro, fanno sì che in una fase della vita si possa decidere di impegnarsi fortemente, ecco, nell'aspetto lavorativo e professionale, e mettendo poi in secondo piano o posticipando la formazione della famiglia. E questo riguarda soprattutto gli ambiti in cui appunto l'investimento di carriera è molto più forte, mentre ambiti lavorativi dove c'è il lavoro fisso e pubblico, invece la conciliazione è più facile e quindi la possibilità di combinare famiglia e lavoro è maggiore, e quindi la componente dei single si sente, si percepisce di grazie meno. Grazie ad Alessandro Rosina. Allora, voi continuate a raccontarci, prima di ascoltare i mercati, che single siete? Sentiamo i mercati. Incalliti, pentiti di ritorno, lat single che non siete ma vorreste tornare. Restate con noi e diteci anche quali aspetti del vivere da soli vi pesano, oppure hanno costituito in passato delle prove che poi avete superato. Vi siete sentite soli, abbandonati nella vita di relazione ma anche nella vita pratica? Quali sono le cose più difficili che deve sopportare e superare un single nella sua quotidianità? La spesa, la manutenzione della casa, affrontare la burocrazia, superare invece dei momenti di tristezza, di defiance, di crisi che sono comuni a tutti. 800 24 00 24. Se un uomo ha più di 30 anni ed è single, ha qualcosa che non va, è darwiniano, la natura li elimina perché non propaghino la specie. Cuore e denari. Salve, sono io, lasciate un messaggio. So che probabilmente sei impegnata ad offuscarti la mente con il sesso, ma sento il bisogno di dirti che la tua cara amica Miranda Hobbs ha appena raccolto una fetta di torta dall'immondizia e se l'è mangiata. Probabilmente questa informazione sarà utile quando verrai a trovarmi in ospedale. Le vicende delle quattro amiche di Sex and the City sono per noi sempre fonte di grande ispirazione. In questo caso Miranda mangia la torta buttata nella spazzatura, ma c'è anche un altro episodio in cui, per il fatto di essere single, non riesce a fare il mutuo e deve discutere a lungo con il direttore della banca, perché in questa condizione di single è difficile fare il mutuo, ma per un single è difficile anche fare la spesa. Il rischio è da un lato quello di mangiare male e dall'altro quello di buttare un sacco di cose. E allora, single all'ascolto, che dici? Deborah, raccontateci con un tweet qual è il prodotto che regolarmente marcisce nel vostro frigorifero, che dovete poi buttare perché è scaduto. Ma intanto in linea con noi abbiamo la dottoressa Schelotto, con cui vogliamo commentare in tanti sms che arrivano al 349-238-6666. Gianfranco da Roma ci racconta di un'altra categoria di single. Un'altra ancora? Sì, perché lui si fidanza solo con donne sposate. Dottoressa Gianna Schelotto, anzi dottoressa Schelotto, Gianna. Gianna, in questo caso Gianfranco, tu hai scritto un libro che a me e Deborah è piaciuto molto, Un uomo purché sia, poi parleremo anche del prossimo, di questo attuale, delle rose che non colsi, psicologia dei rimpianti, perché tanti single ci stanno anche raccontando che rimpiangono magari delle occasioni perdute. Un uomo purché sia vale naturalmente per un universo di donne che per stare in compagnia sono disposte a superare, no? tante un universo di donne che hanno qualche problema di autostima naturalmente, che ritengono di valere solo se hanno un uomo accanto, cioè probabilmente è un retaggio dell'antica della nostra antica vita sociale per la quale la donna senza un uomo era una zitella, e in questa parola c'era sempre qualcosa di patetico o addirittura di dispregiativo. Quindi questo, adesso diciamo singolo e singolo, abbiamo visto stamattina, abbraccia una grande quantità di situazioni, però molte donne si portano ancora dentro quel seme, diciamo. Ma secondo te, Gianna, non è che adesso sta emergendo anche una nuova categoria di uomini che potrebbero dire una donna purché sia? Deborah ha raccontato del suo amico che ha questa relazione, di un suo conoscente, perché questa signora è comunque si occupa di lui, fa un po' una sorta di mamma badante, segretaria, esatto, amante. Cioè... Lui fa una professione intellettuale, di conseguenza negli aspetti pratici della vita è un disastro, e chi ti può risolvere tutto? Le situazioni, una donna che comunque ti vuole tenere a tutti i costi. Qui c'è un po', secondo me, una condizione reciproca di, no? Sì, certo. Certo, da una parte appunto il fatto di una donna che ti vuole tenere a tutti i costi, e dall'altra parte l'antica e immancabile tendenza delle donne ad una sorta di maternage, cioè perché sono diciamo le donne che le persone a vivere di più la condizione di singolitudine come una condizione di disagio sono le donne. Ancora? Primo, ancora le donne. Gli uomini aumentano, stanno aumentando, però per gli uomini è molto più facile trovare una mamma, una sorella, qualcuno comunque disposto a farsi carico di loro, mentre per le donne lo è di meno. Ecco, e questa è proprio una condizione, diciamo, di costume, proprio un'idea di costume che fa sì che per gli uomini sia comunque sempre più facile. Dopodiché certo che aumentano gli uomini single, perché le donne sono anche molto più impegnate nelle proprie carriere, nelle proprie famiglie, quindi è più difficile trovare la persona che tutto dona, tutto perdona, ti accoglie, ti coccola e ti capisce. L'ha trovata una nostra ascoltatrice che ci scrive: dopo aver avuto 7 convivenze, 10 fidanzati, oltre a svariati amanti, è brava, ecco. Ho finalmente trovato l'uomo giusto. Sentiamo. Vi dico cosa fa? Sentiamo chi è questo principe. Il nome naturalmente il contatto non ce lo dà. Stira, cucina, fa le pulizie, la colazione, il letto, giardiniere, in bianca, coccola, quel coccola ci fa ben sperare. Ma soprattutto, e mi fa complimenti. Bravo. Ho aspettato 50 anni ma ne valsa la pena. Ok, ho ancora qualche speranza. Ottimo. Mentre Duccio ci dice: single mio malgrado, sia affettivamente che lavorativamente, posso dire che è dura e spesso sono sconfortato. Basta questa frase per dire ad una donna: poverino, vero? Eccoci qua, vieni qua. Senza pensare perché. Allora, ma noi abbiamo un uomo al telefono, è il nostro prossimo ospite. Lo possiamo però interrogare anche su questi aspetti, sperando naturalmente di non metterlo in imbarazzo. Saluto Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buongiorno, dottor Bazzana. Che ci fa in questo harem lei questa mattina? Io lo spiego subito. Allora, Coldiretti ha calcolato quanto costa all'anno praticamente un po' la spesa del single, no? Una vita piuttosto cara. Voi avete fatto i conti in tasca alle persone che per scelta o per necessità vivono da sole, scoprendo che il costo della vita per le famiglie di un solo componente è il 66% più alto di quelle, come dire, tipo, tra virgolette. Qual è la spesa media per alimentari di un single, Bazzana? Sì, beh, la spesa per alimentare di un single noi abbiamo calcolato essere attorno ai 332 euro al mese, che è il 62% più di quello che spende appunto una famiglia composta da più individui, che sono circa 204 euro al mese. Questo ovviamente ti dà una dimensione anche economica di una situazione che evidentemente ha tutte quelle problematiche che dicevate e raccontavate voi prima, ma che ha anche questa sfaccettatura economica che evidentemente viene un pochettino a pesare ulteriormente nella situazione. Senta, dottor Bazzana, quindi lei ha fatto i suoi conti e allora alla fine è single o ammogliato? No, io sono ammogliato. Non solo per la spesa. E lo dice anche con un tono del tipo: ma che razza di domande fai? Ovvio. No, beh, lo dico con determinazione, perché sapendo che magari mia moglie mi ascolta al telefono. E poi dopo a casa si stanno in casa. Non è il caso poi di... No, ma ci mancherebbe. Giusto, io credo che sia una cosa... una scelta che ciascuno di noi opera, i casi della vita ci portano a mille scelte differenti, è giusto rispettare appunto le scelte di ognuno, per carità. Ma per quale motivo i single spendono di più a tavola? Non è che andando al supermercato noi abbiamo il reparto single dove tutto costa di più. Che cosa succede? Assolutamente. Una parte della maggiore spesa è relativa anche a cose che avete toccato voi, ovvero sia al fatto di avere dei prodotti che non riusciamo a consumare prima della loro scadenza, che magari ci dimentichiamo in frigorifero. Alle volte il single è meno legato alle tempistiche o ai riti di quella che può essere una famiglia di più componenti, in cui c'è reciprocamente da rispettare degli orari, per cui magari una sera gli viene voglia di andare fuori a cena con gli amici e magari non pensa che c'era quella mozzarella che stava scadendo. Brava, infatti, sa cosa faccio io? Che andava consumato. Me la porto a pranzo in radio, guarda un po'. E non la divide con nessuno. È la famosa mozzarella alla compagnia, in sostanza. Infatti abbiamo chiesto proprio ai nostri ascoltatori di raccontarci che cosa marcisce prima nel loro frigorifero e che cosa devono buttare perché è scaduto, perché questo racconta. Consideriamo un altro aspetto, che se per certi versi molte industrie hanno diciamo così rivolto la loro attenzione anche a confezioni monodose che possono andare bene sia per chi fa parte della famiglia, ma anche per chi è single, e quindi confezioni che una volta aperte possono essere completate nel corso di un pasto, di una colazione o di una cena. D'altro canto, però, in queste confezioni l'incidenza dell'imballaggio per più. Per cui è chiaro che ad esempio uno yogurt da 125 grammi al chilogrammo costa di più di uno yogurt da mezzo chilo. Benissimo. Insomma, single, fate i vostri conti. Fate i vostri conti, perché alle volte c'è da pesare fra il servizio aggiunto, quindi la comodità di una confezione monodose, ma anche il prezzo aggiunto che alle volte questa confezione monodose porta con sé. Allora, andiamo a Paolo dalla provincia di Alessandria. Dai. E poi abbiamo Walter da Roma. Esatto, niente a che fare con il cibo per questi due nostri single. Aspetta, uno solamente lo è, l'altro sposato. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora? Allora, io sono uno scapolo, single ottantenne, sposato, vedovo da circa 15 anni, sposato felicemente per oltre 30, c'ho due figli grandi, uno sposato e un altro ancora scapolo, ho avuto alcune relazioni dopo che è mancata mia moglie, però ultimamente mi rendo conto che è meglio stare da soli e avere sempre degli incontri occasionali con qualche persona che si incontra. Io mi muovo moltissimo, viaggio molto, ho molte, malgrado l'età, svolgo ancora molte attività, dall'attività come costruttore edilizio, agricoltore, eccetera. Faccio dei viaggi da solo, sempre da solo, perché ho trovato che praticamente è il modo migliore di vivere solo, così ho occasione di incontrare varie persone durante i viaggi intendo non solo in Italia ma in Sud America. Insomma, se la passa bene, Paolo, dica la verità. Se la passa molto si bene. Si gode questo momento bene. Della sua vita, le non sue ho problemi finanziari. E quindi Paolo, lei la consiglia? Single consapevole felice. Precisamente. Grazie Paolo. Grazie. Sta per andare in onda il traffico. Adesso con questi blitz qua anche noi rimaniamo sempre un po' basite. Sentiamo allora cosa succede sulle strade italiane. Tutti attenti al traffico. Cuore e denari. Guarda, la cinematografia aiuta, ma anche le canzoni, ce ne sono tante che dipingono un po' il mondo dei solitari, dei single, in maniera avvincente, comunque convincente. Abbiamo molti ascoltatori, soprattutto in linea con noi Gianna Schelotto. Sì. Gianna, allora, ci sembra che i single che sono intervenuti siano single contenti, soddisfatti, felici. C'è però chi ci sta scrivendo al 349-238-6666 la sua storia di single, però una condizione che un po' velata da una sorta di rimpianto, di occasioni perse. Allora, e questo mi dà là per parlare del tuo ultimo libro, Le rose che non colsi, dove di rimpianti tu parli, proprio queste vite che sono segnate dalle cose non dette male, dalle occasioni che si sono lasciate scappare, magari un grande amore che uno ha lasciato scappare e poi non ne ha più incontrati e si ritrova single. Allora, prima volevo commentare un attimo la testimonianza dell'ottantenne, il quale dice ho avuto delle storie, però adesso viaggio, faccio mille cose, preferisco avere dei rapporti, diciamo, sporadici, estemporanei. E lui rappresenta davvero il tipo di single che ha due, o forse addirittura tre cose fondamentali. Una è l'autostima, sì. Cioè una persona che pensa di bastare a se stessa, che sta bene con se stessa e che ha una forte idea di sé. L'altra è la buona salute, ovviamente, certo. È la prima cosa che mi mette. E terza, io immagino che si tratti di una persona facoltosa, quindi diciamo questi tre elementi fanno la differenza. Esattamente, sono apparentemente, come dire, dettagli, ma in realtà sono quelli che fanno la differenza, perché il problema dei single è anche la condizione quotidiana di vita. Cioè un single che oltre ad essere da solo ha anche difficoltà economiche, fa anche fatica a far bastare lo stipendio per tutto il mese, è chiaro che finisce col confondere diciamo il proprio disagio dovuto ad altre cose col fatto di essere solo. Ecco. Allora adesso devo interrompere per una breaking news. Sentiamo. Allora, divorziato da 25 anni, sì. Seguo la Debora da anni e sarebbe la mia metà. Faccio due tipi di palestra. Aspetta, sentiamo con qua. Arti marziali, sì. Faccio tutto a casa da solo. Ottimo. Mi piacciono le bacche di goji. Anche a me. Zenzero. Curcuma. Mangio sano. Bravo. Cosa ne dice Deborah? Un bacio a tutte e due. Carlo. Tra l'altro Carlo come il mio. Avremo anche questo in comune. Carlo, io caldeggio. C'è un problema che purtroppo per me anche è insormontabile. Anche Pietro che è in regia la parte tecnica. Che ci ama tantissimo. Carlo, qua il mio problema è l'altezza. Io devo trovare un uomo più alto di 1,80 m. Veda lei se abbiamo anche questo requisito. È fatta, venga a trovarci e ci prendiamo un caffè. Ed è fatta. Allora Gianna, sei testimone, vorrei che Deborah non li misurasse a metri, perché corre di rischi grossi. Sono un po', come dire, ho questo pregiudizio qualche volta che un po' mi limita, Gianna, però che dobbiamo fare? Sì, lo capisco, ma insomma è meglio prendere un altro tipo di misure, però le misure psicologiche. Posso dire che però qualche volta non scelgono loro per il fatto dell'altezza. Io non voglio parlare di misure. No. E con questa perché la misura è già una sta già scatenando altri messaggi. Andiamo oltre, che fa un po' caldo. Vi rimetto in linea con Bazzana, perché dobbiamo levarci quella curiosità di 200-300 euro al mese. Sì, dai. Bazzana, poi la lasciamo, perché qua molti ascoltatori stanno contestando la questione della spesa di un single 332 euro, 204 euro, mentre non mi ricordo le cifre, allora, me le ribadisce. 204 per persona in una famiglia e 332 per persona, perché Nicoletta stava già facendo i conti in casa sua e dice non lo so. È chiaro che l'ha portato al singolo individuo, perché essere un singolo individuo in una famiglia costa di meno che essere un singolo individuo. Vedi che siamo familiare. Proprio delle capre con i numeri. Grazie professor Bazzana, perché grazie. A casa mia noi non buttiamo niente, neanche io. Tutto si spazzola. Ma Roberto da Padova, a proposito di sprechi, non ci dice se è single, ma dice che lui ha risolto il problema del cibo in esubero con un'anatra. Mangia di tutto e mi fa le uova. Ah, carina. E anche penso bravo. Compagnia. Sì. Allora, Walter, buongiorno da Roma. Che poi abbiamo da Giulia dalla provincia di Siena. Buongiorno a tutte e due. Walter? Walter? Sì, buongiorno. Sì. Sarà distratto, Sì. 1,81 è alto Carlo, tra allora l'altro. Iniziamo ad avvicinarsi. Walter, lei quanto è alto? Un italiano medio, 1,74. Perfetto. Dai, tanto Walter è già sposato e poi sta a Roma. Walter, ci racconti. Allora, dunque, io sono sposato e ho due figli. La vostra trasmissione si intitola Cuore e Denari. Sì. Io la volevo mettere sui denari. Sì. Nel senso che in epoca fascista c'era un'invisa bassa sugli scapoli, eccetera, per spingere ovviamente le persone a sposarsi, era una stupidaggine. Però dietro quel tipo di tassa c'è anche un discorso che chi ha una famiglia ovviamente fa un investimento per sé e anche per la collettività. Allora la provocazione che voglio fare è questa. Secondo me è giusto far pagare una tassa, una qualcosa che ovviamente contribuisca all'educazione generale, scolastica, gli asili e quant'altro, perché chi ha una famiglia ovviamente si addossa tutta una serie di costi, non solo per i propri figli ma anche per la collettività. Mm-hmm. Faccio un esempio e chiudo e poi sento i vostri ospiti cosa dico. Io faccio l'avvocato e pago ogni anno la parte dell'imposta per la maternità per quanto riguarda le mie colleghe, senza che ovviamente poter usufruire di una cosa di questo genere. È sicuramente un contributo inviso, però oggettivamente chi ha un figlio non solo per se stesso, ma anche per la collettività. Ma quindi, Walter, mi scusi, ma non capisco la conclusione alla quale vuole arrivare. Quale dovrebbe essere, dal punto di vista fiscale ed economico, il contributo aggiuntivo che i single dovrebbero dare al sistema? Perché già la Costituzione lo sancisce, questo principio. Sì, però, uno contribuisce però, per quello allora, che può. Le imposte le pagano tutti, le tasse le pagano soltanto chi usufruisce di un servizio, cioè per esempio la tassa scolastica sulla mensa scolastica degli asili, soltanto chi manda i bambini all'asilo. Qui è necessario, a mio avviso, un'imposizione invece generalizzata, ovviamente una piccola imposizione. Per contribuire anche se non si è, come dire, ma genitori, certo, all'istruzione generale. Ecco. Voi avete parlato di numeri che stanno aumentando enormemente, certo, 45%, eccetera. È chiaro che fra 20 anni ho capito. Walter, le posso dire che io con i miei nipotini il mio lo faccio? Anche se non sono figli miei. Questo lo fa lei spontaneamente? No, vabbè, certo. Ma no, ma c'è una rete famiglia. Comunque ho capito, Walter, la sua osservazione, la ringraziamo. Grazie, buona giornata Walter. Intanto abbiamo già un'alternativa, Carlo, mi spiace per Carlo. 1,87, no, 46 anni. Ma è lui? No, è un altro, Deborah. Vedi che hai un sacco di proposte e non te ne accorgi. Allora, 1,87, 46 anni, sportivo, mangia sano, un'alternativa, allora, a Carlo. Lui ha messo anche ieri subdolamente gli anni. Attenzione che alla fine della puntata arriva al diciottenne, alto 2,10 metri. Allora, io ieri avevo detto, mi raccomando che la puntata non si giri su di me domani. E invece qua, eccola. E qua scrivono. Eccola. Allora, abbiamo tempo per sentire Giulia che ci chiama dalla provincia di Siena? Magari salutiamo anche l'altra ospite che ci ha raggiunto e che gentilmente ci accompagnerà nel giornale radio, la sentiremo a questo punto dopo, che dici? Sì, anzi ne abbiamo due, perché siamo veramente e oggi ritorniamo, ritorna a comporsi il gineceo, perché in linea con noi abbiamo il piacere di avere un'amica di Essere Benessere, sì, che è la dottoressa Giovanna Luini, medico, scrittore, divulgatore scientifico. Dottoressa Luini, bentornata. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. E poi abbiamo anche Valentina Santomo, giornalista, autrice di Manuale di sopravvivenza in cucina, ricette per single 30-40enni, metropolitani, sessualmente attivi. Buongiorno Valentina, buongiorno, grazie. Una precisazione, sì, non so da dove sia nata questa cosa sul web, penso, sì, ma io non sono giornalista per rispetto alla categoria. Ah, ho detto, va bene, ok. Autrice di Manuale di sopravvivenza. Ieri non abbiamo avuto modo appunto di chiarire questo aspetto. E tra l'altro il suo libro è molto divertente perché in copertina, grazie, come dire, mette proprio la fotografia del frigorifero del single. Esatto, quello con il limone marcio. Esatto, ecco, quello è un classico in tutti i frigoriferi. Infatti, che cosa mettere in pentola del single allora, Valentina? Ma guardi, questo libro in realtà è un pretesto, nel senso che nasce con un narcisismo narrativo, nel senso che si compiace di voler parlare di tante cose e la scusa poi è la cucina. E, è un luogo comune che nei frigoriferi di single non ci sia nulla, però spesso e volentieri è la verità. Quello che volevamo dire è che non necessariamente un single in quanto tale cucina soltanto per se stesso, anzi dovrebbe non, certo, farlo affatto. Perché le occasioni potrebbero essere mille, perché comunque una persona inserita in un contesto, anzi una persona che ha forse ancora più interesse di coltivare le proprie relazioni interpersonali, no? E sicuramente il modo più divertente e efficace per farlo è quello di cucinare. Quindi partiamo dal fatto che magari il single possa avere un frigorifero vuoto, ma ci divertiamo poi a raccontare tutto quello che davanti a quel frigorifero può accadere. Ottimo, allora questo volume è edito da Giunti, quindi per ricordarlo, e vogliamo sentire anche la Giovanna, magari che ci anticipa Nicoletta. Sì, o ce la facciamo. Dottoressa Luini, noi dopo le informazioni del nostro GR parleremo con la dottoressa Luini dello stato di salute dei single, perché in una puntata precedente, ti ricordi Deborah, proprio, sì, con la dottoressa Luini, sì, sì, parlando di un libro che ha scritto con Veronesi Longevità, ci raccontava che la coppia protegge, perché si riducono le malattie cardiovascolari, insomma aiuta a vivere in coppia, aiuta a vivere meglio e più a lungo. Allora, i single come staranno? Ma non è detto. Restate con noi e ci aggiornerà la dottoressa Luini dopo il GR. cuore e denari. Li abbiamo intercettati, contatti, individuati, localizzati, seguiti a fare la spesa, ascoltati all'800 24 0024, letti attraverso i messaggi che stanno arrivando al 349 238 6666. Adesso vogliamo capire come stanno i single. In linea con noi la dottoressa Giovanna Luini, medica responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Dottoressa Luini, ribuongiorno. No, ribuongiorno. Beh, ho sentito dal vostro GR che Jodie Foster si è sposata, quindi vede? Forza Deborah, dobbiamo sposarci tutti perché guardi che quanto... il problema è che qua ne abbiamo troppi da scegliere, lo so, sa? No, e lo quando so. La scelta è così numerosa perché ci sono almeno candidati, io ve lo voglio sì. dire, un'altra breaking news, almeno 15 o 16. Ecco, cioè, pensa ecco. che sì, però non mi hanno visto, non mi conosco. Deve per avere cui adesso prog- loro si sono lanciati così in queste proposte, dopodiché bisogna vedere se una volta che mi vedono vis-à-vis piaccio. Se la redazione di Cuore Denari raddoppiano. Va sì, bene, caffè pagato dottoressa Luini. Ma torniamo a noi. Torniamo a noi. I single uomini non stanno tanto bene perché l'uomo nella coppia vive di più. Gli studi sulla longevità sono chiarissimi. L'uomo deve stare in coppia perché questo favorisce una vita un po' più regolare e allunga la vita. La donna single sembra che abbia un leggero svantaggio anche lei rispetto alla donna sposata, ma quando è in coppia e poi ritorna single, per esempio perché divorzia, non perde il vantaggio in sopravvivenza, mentre l'uomo in coppia che ritorna single a quanto pare perde il suo vantaggio in sopravvivenza. Insomma, la sintesi è: in coppia si sta bene. Allora, posso raccontare quello che dice sempre la mia mamma? Certo. Voi sapete che ho perso mio papà 3 anni fa e lei mi dice sempre: io da sola ce la faccio, ma non so se fosse successo il contrario, tuo papà come sarebbe stato? Esattamente il punto, esattamente il punto. Gli studi dicono che l'uomo fa molta più fatica a ritornare single, nel senso che se la cava un po' peggio, anche in termini di salute. Dottoressa Luini, torni prestissimo a trovarci. Grazie. L'aggiorneremo sui pretendenti di Deborah. Assolutamente. No, poi tra l'altro voi siete delle amiche, ve li faccio anche un po' esaminare. Perché... No, scusa, adesso tutte amiche. La dottoressa Luini dopo. No, prima no. Noi faccio di Cuore Denari con Marco, Laura, Camilla e tutti, poi... Tutti, vi metto lì in fila. Allora, dottoressa Schelotto, la nostra amica Gianna, gli uomini poi fanno più fatica a restare da soli, che se ne dica, non certo, solo dal punto di vista della salute. Dal punto di vista del badare a se stessi, del, proprio della sopravvivenza quotidiana. Però io non vorrei far passare in sordina la proposta dell'ascoltatore romano, l'avvocato mi pare che fosse, sì. che proponeva praticamente, che voleva rinverdire la tassa sul celibato. Ah. E voglio dire, i single stiamo dicendo che ce ne sono di più felici di meno felici, di più soli di meno soli, di più autonomi di più dipendenti, però come dire, aggiungergli anche una tassa come una sorta di punizione per il fatto di essere soli no. mi sembrerebbe anche davvero perché, appunto, eccessivo. Ritorniamo al fatto della scelta o meno, non è che tutti, perché qua va anche un po' sgombrato il campo da questo pregiudizio che il single se la scialla continuamente, sicuramente ha molte libertà, però insomma ci sono anche i single che abbiamo descritto. Che single per una forma di egocentrismo, di egoismo, perché non si vuole impegnare, non è così, noi sappiamo che tra i single ci sono anche persone di questo tipo, ma la stragrande maggioranza dei single in genere non sceglie questa condizione, poi alla fine accetta, appunto, certo. se ha una buona autostima, come dire, si adegua, si prende anche il buono di questa condizione. Ma non è che si possa indiscriminatamente tassare i single perché sono single. Però Valerio ci scrive: tutti gli amici ammogliati dicono non ti sposare, per carità, ci sarà un motivo, preferisco restare single, mi invidiano gli ammogliati. Valerio è contento così, sì. E andiamo a sentire invece che cosa ci dice Aldo dalla provincia sì. di Pescara. Poi buongiorno. Ricordiamoci anche di Marta, perché appunto tocca la questione dell'orologio biologico, poi ci andiamo da lei. Sì. Che abbiamo Pronto. Chiamato Aldo. Eccoci, buongiorno. Aldo, buongiorno a lei, buongiorno benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Bella trasmissione, complimenti. Grazie. Allora, io parto dall'ultimo pezzo che avete detto: non sposarti perché sarei meglio. Ma oddio, queste amiche che dicono così probabilmente in parte hanno anche ragione, perché non so, stai da solo, tu riesci a vivere la tua giornata senza avere altri appuntamenti con la persona che ti è a fianco, con l'energia che puoi sviluppare da solo, che puoi determinare da solo. E invece dall'altro canto essere ammogliati significa poi dividere gran parte di questi impegni con l'altra persona, cercare di capire se è stanca, se è allegra, se ha motivazioni di andare a ballare, di frequentare, ecco. Però il singolo di per sé è chiaro che fa confusione, è chiaro che a fine settimana deve rifornire il frigorifero togliendo e buttando cose che non ha consumato. Vabbè. E proprio perché essendo single riesce a deviare immediatamente interesse, spostare interessi su altri interessi. Sostanza, Aldo, qual è io non riesco a capire però dove vuole portarci Aldo. Aldo, allora, io mi parli semplice, perché io sono una persona semplice, sì. Ho bisogno di concetti chiari. Per esempio, se io oggi, che è sabato per esempio, voglio uscire, non ho limiti, non ho la mia compagna, esco e faccio un programma. Via. Poi magari al bar incontro questo amico che mi invita e mi fa cambiare percorso. Sì. Quindi una certa di nomade, una sorta di nomade che viaggia. Insomma, un po' randagi. Ecco. Bravissima, bravissima. Quando rientra a casa nella sua tana, cosa fa? Oddio, che mi mangio? Svuota il frigorifero, pulisce il frigorifero dai limoni marci. Che tristezza, però. Beh, qui però mi pare che Aldo descriva la vita del single come totalmente incontrollabile, come quello che si lascia condizionare non appena incontra l'amico. Io in realtà un po' di stabilità la mia vita gliela do, pur essendo single. Aldo, non sono così, come dire, suscettibile di cambiare le mie giornate. E fa un tiramisù straordinario. Eccola. Allora, Gianna, un commento prima di salutarti ad Aldo dalla provincia di Pescara, il nostro amico randagio, no? Sì, come diceva giustamente Deborah, mi sembra che sia un taglio un po' troppo depressivo. In realtà il single, appunto, il single non si abbandona a se stesso e cerca di salvaguardare quel minimo di autostima, per cui sa benissimo che se volesse cambiare la sua vita forse potrebbe anche farcela, sì. E che l'idea di tornare a casa in una specie di tana, di sentirsi solo e di trovarsi di fronte allo squallore di un frigorifero vuoto, e penso che sia una rappresentazione di una situazione che è una situazione limite che non riguarda, per fortuna, la gran parte dei single. Allora, ringraziamo Gianna Scalotto per essere stata con noi. Io volevo parlare anche di rimpianti, ma tu non hai voluto, e quindi tornerai a parlare con noi della psicologia dei rimpianti. Subito la ritorsione. Le rose che non colsi. Grazie Gianna Scalotto, grazie. Buona giornata. Non ho parlato perché spero che mi rimpiangiate. Anche questa è una strategia. Ottimo. Abbiamo Feliciana che ci chiama da Roma. Sì. Buongiorno. Buongiorno, mi sento molto molto piano. Feliciana, pronto? Buongiorno da Roma. Mi sente? Buongiorno, sì, da Roma. Sì. Allora, ascolte, io sono una single da sempre, da fino ad oggi. Sì. Però il mio frigo non è mai mai vuoto. Ma neanche il mio, Feliciana, ma si figuri. Cucino il sabato per tutta la settimana, faccio le porzioni, metto nel congelatore col forno a microonde, scaldo e mangio. E non è vero che i singoli si ammalano di più, perché io non sono malata, non sto male, faccio volontariato e vi ascolto addirittura la mattina nelle repliche. Brava, vede, per questo. Ma perché lei è totalmente consapevole, qui forse, come dire, non so se si ammalano un po' di più. No, quelli ma che alla dottoressa lui... Mi sento piano. Ci sente in radio, Feliciana? Allora, ci sente poi magari in radio, in replica. La dottoressa Luini diceva che le donne comunque se la passano poi meglio e gli uomini hanno una difficoltà a tornare single, magari dopo un'esperienza come magari un divorzio o in alcuni casi il lutto. Grazie a Feliciana che ci ascolta sempre, che ci racconta la sua vita così piena di single. E allora, abbiamo altri due ospiti, perché qua oggi, tra l'altro, uomini top di gamma, non ce ne siamo fatti fatti mancare. Allora, dobbiamo salutare il nostro dottor Carlo Gargiulo, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Gargiulo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori. Allora, dottor Gargiulo, sicuramente tra i suoi assistiti ci saranno single uomini e single donne. A questi suoi assistiti, lei quali consigli dà, sapendo appunto che vivono da soli? Ma il primo consiglio che io do agli uomini che vivono da soli è quello di non trascurare la loro salute. Ahimè, è la donna che si occupa generalmente della salute della famiglia, e quindi ecco, sui single uomini bisogna stare un pochino attenti, soprattutto dopo una certa età, che non trascurino i controlli annuali, che non facciano e che non dimentichino le terapie quando le devono prendere. Insomma, un po' più di attenzione femminile, fra virgolette, gli può essere particolarmente utile. Per quello che riguarda le donne, invece, il consiglio è sempre quello di stare molto attente alla dieta. Le donne hanno una capacità di cucinare, una capacità di scegliere alimenti che sono fra i più grassi, che sono fra i più dannosi per l'organismo, che bisogna dire è veramente eccezionale, perché in realtà sono gli alimenti che danno più sapore alle pietanze, questo certo, dobbiamo dirlo. E allora bisogna stare un po' attenti, quindi controllare la bilancia, la mattina salire sulla bilancia e decidere in base al peso se è o meno il caso di mangiare di più o di meno, insomma tenersi un po' da questo punto di vista. Per restare in tema di alimentazione, dobbiamo dire che un altro consiglio che diamo agli uomini soli, ma qui parliamo di persone più avanti negli anni, persone che hanno magari una vedovanza, che sono arrivate, ahimè, a essere single per motivi legati a un lutto, ecco, è quello di non dimenticarsi di mangiare, perché spesso hanno la tendenza a non cucinarsi, a mangiare alimenti certo, meno costosi, meno buoni, meno raffinati, che sono alimenti che purtroppo hanno anche un'incidenza maggiore per l'aumento del colesterolo. Infine, un consiglio che diamo a tutti i single, ma forse anche a quelli che non sono single: non vi dimenticate mai di bere l'acqua. L'acqua è fondamentale per l'organismo e non sempre sentiamo lo stimolo della sete. Ricordiamoci di metterla lì e di berla lo stesso. Grazie. Grazie dottor Gargiulo, aggiungiamo anche: provate a sorridere un pochino di più, single o non single, la vita diventa più semplice. Ascoltando Cuore Denari vi divertite. Basta ascoltar voi, ovviamente, dovreste sorridere un po' di più. Lei ci ha detto che dobbiamo salire sulla bilancia la mattina e già ci roviniamo la giornata così, dottor Gargiulo, ma no, questo consiglio, comunque grazie. Non si fa questo quando do un consiglio. No, da domattina, tutte le mattine. Abbiamo convocato, grazie, anche Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore. De Stefani, un ascoltatore, proponeva il ritorno della tassa sul celibato di stampo fascista. Noi andiamo oltre. Il fisco come guarda la famiglia composta da un'unica persona? Qualche suggerimento anche dal commercialista? Rapidissimo, la ringrazio. Certo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Diciamo che non ci sono delle agevolazioni specifiche per i single, però guardando tutte le detrazioni fiscali da portare in detrazione appunto dall'IRPEF, possiamo ricordare la possibilità di detrarre 990 euro dalla dichiarazione di redditi per chi esce dalla casa dei propri genitori e va in affitto in un'altra abitazione. Questa è diretta ai giovani dai 20 ai 30 anni che per i primi 3 anni hanno questo vantaggio fiscale. Poi, pensando ancora alle spese tipiche dei single, soprattutto presumo per i maschi, abbiamo le spese per la colf e quindi per le spese per i collaboratori domestici. Ecco, in questo caso c'è la possibilità di dedurre dal reddito i contributi pagati per le colf nel limite di 1.500 euro. Benissimo, De Stefani, purtroppo dobbiamo salutarla perché dobbiamo andare a Cuore Denari Vitali. Magari su questi aspetti fiscali, comunque ci ha dato già indicazioni pratiche, ci torneremo in un'altra occasione. Buona giornata. Grazie, arrivederci. Allora, i racconti che abbiamo selezionato per questa settimana, sì, che quindi riceveranno a casa un cofanetto Smartbox, sono per il cuore Fabiana, sì, e per i denari Enrichetta. Ottimo, andiamo ai nuovi incipit, cominciando naturalmente con quello di cuore. Nel mondo parallelo dell'urologia, un quotidiano di respiro nazionale esce con in prima pagina la cronaca di un clamoroso incidente che ha funestato il primo grande esodo verso le vacanze estive. A corredo del pezzo vi sono anche le fotografie che illustrano il gran numero di macchine coinvolte, le facce sofferenti dei feriti, quelle disperate di coloro che hanno perduto un familiare o un amico. In una di queste, sullo sfondo, un branco di pecore bruca indifferente all'accaduto. In un'altra sono ritratti i mezzi e gli uomini del soccorso, cui si sono aggiunti numerosi automobilisti. Tra questi ultimi, l'articolista scrive che una particolare menzione spetta a un cardiochirurgo di fama in viaggio verso un ospedale dove lo aspettava un intervento di trapianto di cuore. Letto l'articolo, il cardiochirurgo... Completato, andate sulla pagina di Cuore Denari, la parola che dovete aggiungere è coppia. Andiamo adesso all'incipit di Denari. Nel mondo parallelo delle biblioteche, un giovane entrò in una di queste e tese al bibliotecario un biglietto con tanto di titolo del libro e autore. «L'avviso però che questo testo è introvabile», disse. Il bibliotecario, che si faceva vanto di dirigere una delle più fornite biblioteche del paese, sorrise. «Vuoi forse dire che non l'hai trovato altrove?», precisò. Ma il giovane insisté. «Intendo invece proprio quello che ho detto». «E allora dimmi che cosa sei venuto a fare qui?» chiese il bibliotecario. «Semplice. Vorrei capire dove si troverebbe un libro con questo titolo e scritto da questo autore. Richiesta molto strana, non ti sembra?» «Affatto», rispose il giovane. «Perché...» Di Denari dovete inserire chiaramente la parola singolo, quindi ricordatevi di inserire le parole che noi vi diciamo, perché altrimenti il racconto non potrà essere preso in considerazione. Avete tempo per completare tutti questi racconti fino a martedì prossimo. Peraltro, coppie, singoli, ricordiamo che lunedì prossimo parleremo anche dei divorziati. Assolutamente sì, lo faremo anche perché il c'è martedì la c'è la guida pratica del sole, e quindi se avete già delle idee da suggerirci, delle domande da porre ai nostri esperti, se state affrontando, avete già affrontato una separazione o un divorzio, se siete figli di genitori separati o divorziati e volete raccontarci come siete vissuti, quanta fatica avete dovuto affrontare, iniziate a scriverci a Cuore e Denari. Noi possiamo ancora dire un Stefano, dobbiamo chiudere. Volevo leggere un messaggio di Stefano, sì, ma sì, non lo leggo perché voglio dire ai tanti pretendenti di Deborah, c'è Giulia Giulia, ai tanti pretendenti di Deborah, che come io avevo previsto è arrivato il 38enne. Occhi verdi, 1,90. No, veramente avevi detto 18enne, comunque una cosa 18, il toy 38. Boy, chiamiamolo così, ecco. Dai, adesso sì, vedrai che il 18enne arriva tra speriamo poco dopo no, Giulia, ma mio i 18enni li scartiamo. Assolutamente sì, almeno li prendiamo. No, dai, sopra i miei, sopra posso no, dire, dai 35, dai 35 la storia. No, il toy 30, no. Dai 30, dai 20, dai 26. Vabbè, fate voi. Che Dio Giulia, buongiorno. Oggi. Giulia, buongiorno. Eccoci qua. Macchina, mi sentite? Sì, sì, sì. Va bene. E allora, io sono partita accendendo la radio, che ormai la trasmissione era cominciata. La domanda vostra era perché la difficoltà e dove si trova la difficoltà dei single. Allora, io sono single da sempre, ma non perché l'ho voluto, per una questione che tutti gli uomini, forse sono stata sfortunata, non lo so, insomma volevano una mamma. Io la mamma la volevo fare un bambino, ma non un uomo grande. Brava, brava basta. Giulia. Ho detto basta, e no, sono felicemente single, felicemente. Mi trovo bene. Ecco, l'unica difficoltà me la creano le donne, ma quelle che vanno poi alla festa delle donne sembrano satanate, poverine. E l'altra difficoltà me la creano gli uomini quando credono che le donne sono tutte stupide. Per esempio, quando tu vai dal meccanico e quello lì non ascolta i sintomi che tu gli dici di quella macchina. Ecco, queste cose mi fanno arrabbiare. È un pochino anche il principio che ieri ha così un po' spiegato nel suo Buongiorno Massimo Gramellini, riferendosi alla storia di Maria Elena Boschi, che dice: vorrei un uomo con tre bambini e però sono sola. È perché le donne molto intelligenti spaventano, purtroppo è anche così, ma questa è un'altra storia che magari non appartiene a Cuore Denari. Vi vorrei leggere Francesco da Verona, che grazie dice, Giulia, il matrimonio è come la trappola di topi, chi è dentro vuole uscire, chi ci gira intorno vuole entrarci. È probabilmente vero anche questo. E Andrea ci scrive: il matrimonio è l'arte di risolvere in due problemi che da soli bellissimo, non avresti. Bellissimo, è vero. Noi siamo virtualmente domani, sposate radiofonicamente. Domani ci sentiamo e poi lunedì parleremo di divorzio. Buona giornata a tutti.